No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono ossessionato da complotti orditi contro me e contro tutto quanto. Ci sono dei fatti enormi che necessitano una commissione d'inchiesta. No, no, no! La commissione d'inchiesta no! La commissione d'inchiesta no! La commissione d'inchiesta sul complotto che fece cadere Berlusconi, forse, nel 2011 no! La commissione d'inchiesta no, tutto quello che volete, i dibattiti in televisione, alla radio, sui giornali, ma la commissione d'inchiesta no. Brunetta, commissione d'inchiesta su questa spaventosa notizia. Domani presenterò a mia firma e a nome di tutti i miei parlamentari un disegno di legge per la costituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare che faccia luce in tempi brevissimi su questa allarmante, spaventosa notizia che abbiamo percepito. Ormai si sta facendo chiarezza sul complotto, sul colpo di Stato. Però, caro Parenzo, noi possiamo prendere per il culo il complotto, la commissione d'inchiesta, come dire, il linguaggio immaginifico e drammatico del signor Brunetta. Però, se uno leggesse le righe di quello che scrive l'ex segretario al tesoro americano, il signor Geithner, che non è un quisque de populo, cioè non è un, come dice Brunetta, un qua, qua, qua e si sbaglia. Sentiamo un po' come ha detto Brunetta di questo americano. Friedman, non Brunetta, Friedman. E Tim Geithner è un uomo serio, sobrio, un po' noioso, anche tecnico, ma non è capace di inventare e non è una qua qua qua là. Il qua qua qua là, no, è il qua qua là qua, Friedman. Vabbè, scrive Geithner, a un certo punto in quell'autunno alcuni funzionari europei ci hanno approcciato con un complotto per provare a fare cadere il governo del Presidente del Consiglio Berlusconi. Volevano che rifiutassimo di appoggiare i prestiti del Fondo Monetario Internazionale all'Italia fino a quando Berlusconi non se ne fosse andato. Capito? Ma che c'è da sapere ancora? Parenzo, non si sente una mazza! Non si sente una mazza, su! Ciao! Oh! E parla! Non si sente! Eccolo qua! Come stai, Giuseppe? Chi è? Giorgio dell'Arti. Oh, caro Giorgio, come va? Ma dove siete? Scusate. Io sono qui a casa mia, abito lì. Ma ragazzi, non me ne frega niente. Ciao Giorgio, ti saluto, un abbraccio. Quanto ciò qui tengo, forse ha ragione il mio amico Leonardo, che passo troppo tempo lì. Oh, Berlusconi ha fatto un esperimento sui discorsi di Hitler. Praticamente ha trascritto, ha letto i discorsi di Hitler e ha scoperto che sono uguali a quelli di Grillo. Le dico cosa ho fatto in questi giorni. Sono riuscito a avere tutti i discorsi di Hitler nella campagna 1932-1933. Mi sono divertito a togliere da questi discorsi i fatti contingenti relativi all'epoca. E poi ho distribuito a un po' di persone i discorsi dicendo che erano discorsi di Beppe Grillo. Nessuno è tornato da me dicendo non è vero. discorsi di Hitler uguali a quelli di Berlusconi. Ma la cosa fantastica di questa mattina a Coffee Break di Berlusconi è quando parla dei pizzini, così vengono chiamati dalla magistratura, che il signor Frigerio, ex PDL, ex democristiano, gli mandava, secondo i magistrati, per informarlo sugli affari dell'Expo. Secondo lui per questo. Il signor Frigerio, che è un vecchio uomo della Democrazia Cristiana, che io ho conosciuto 30 anni fa. Poi però è stato anche deputato Forza Italia, no? Mi fa la cortesia di mandarmi ogni tanto dei suoi pensieri sulla situazione economica mondiale, europea e italiana. Questi sono i pensieri. Allora, sono i pensieri. I pensieri, tanto è vero che li abbiamo rintracciati nei nostri archivi e questa mattina il mio legale va a consegnarli tutti, non ne manca ecco, ma nessuno, li alla procura. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Primo ospite della serata, il professor Paolo Becchi da Genova, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora, caro professore, il colpo di Stato Becchi. Permanente, editore Marsilio, è una sorta di libro che è in queste ore di grandissima attualità. Allora, la domanda immediata, caro Parenzo, vabbè, non cominciare a fare subito quello che denigra, che prende in giro il professor Becchi, su, basta. No, lascialo dire, ci mancherebbe, dai, su. Allora, professor Becchi, io voglio capire una cosa. Berlusconi ha ragione quando accusa l'Unione Europea, anche se poi in realtà dice che non è stato libero di decidere, in alcuni momenti parla di complotto, in altri no. Ma comunque, ha ragione a parlare di complotto o no? Ma io credo che indipendentemente da quello che dica Berlusconi, c'è stato nell'estate del 2011, ormai assodato da diverse fonti, un tentativo dall'esterno di intervenire sul governo di Berlusconi. Questo mi sembra ormai un dato innegabile. Io ho cercato nel mio libro, sì, quello che tu hai citato, il colpo di Stato permanente, di far capire che da lì è cominciata la degenerazione delle nostre istituzioni. Insomma, c'è stata un'accelerazione, un processo tale che ha portato le dimissioni di Berlusconi, sì, senza il passaggio parlamentare, senza quindi il voto di sfiducia. Per cui da questo punto di vista si può dire, però Paolo, sì, si può dire che ha ragione Berlusconi a denunciare il fatto che non è stato libero di decidere. Ma io penso di sì, non ho nessuna difficoltà a dirlo, cioè non ho nessuna difficoltà a dire che diciamo così, l'attacco che c'è stato nei confronti del nostro paese allora e l'attacco che riguardava anche le sue aziende, perché basta guardare come andava il titolo Mediaset, sì, in quel periodo, per rendersi conto che lui ha dovuto fare di necessità virtù e ha dato le dimissioni, però è stato, scusami, costretto, non si può dire che è stato libero, è stata una costrizione. Però vedi, la cosa che c'è, un attimo solo, Paolo Parenzo, scusami, che c'è? Scusami, una cosa importante. Giuseppe, dimmi. La cosa che nessuno dice è perché ha dato le dimissioni. Le dimissioni sono state date, questo non l'ha detto né Friedman né il ministro, l'ex ministro del Tesoro americano, le dimissioni, sì, sono state date perché Berlusconi in quel periodo stava sicuramente preparando il piano B dell'uscita dall'euro. Quando si è saputa questa cosa, sì, è chiaro che sono intervenuti per bloccare qualsiasi tentativo. Avevano paura di Berlusconi? Avevano paura non di Berlusconi, ma del fatto che il suo governo sarebbe uscito dall'euro. La paura dell'uscita dall'euro è stata determinante per la caduta di Berlusconi. Berlusconi stava, io credo, ma insomma ci sono dichiarazioni a riguardo, stava preparando con il ministro Tremonti il piano B per l'uscita dall'euro. Parenzo, è pazzo Becchi? Beh, è un professore o è un bubù? Che vuol dire questa cosa? Che c'entra il professore adesso? No, ma scusami. Questo non c'entra niente col fatto che è professore. Non dico professore, lo dico da un punto di vista, come dire, politico. È una critica al professor politico Becchi, al politico Becchi. No, ma la domanda che ti ho fatto è questa: è pazzo oppure è un visionario? Ma ti spiego perché, totalmente, lo spiego in 40 secondi, totalmente pazzo, totalmente. Ma scusami una cosa. Aspetta Paolo, un attimo solo. Cosa. Ti leggo le dichiarazioni di Paolo Savona. Io posso essere anche un cretino, d'accordo. Ma Paolo Savona dice, durante un'audizione al Senato, sì. Non voglio rivelare segreti personali, ma a un certo punto fui chiamato dal ministro dell'economia Tremonti, il quale mi disse che avevamo un piano B. Cioè, non lo sto dicendo io posso essere anche un pazzo scatenato e avete ragione voi. Magari. Ma qui c'è Paolo Savona che lo dice, che credo che insomma sull'autorità e diciamo la competenza di questo. Senti Paolo, cioè, tu stai dicendo che Savona è convinto che c'è stato un complotto contro Berlusconi? Anche Savona è convinto di questo? Ma scusami, t'ho letto quello che lui ha dichiarato in un'audizione del Senato ed è scritto nel mio libro. Ora è chiaro, ma che dietro c'era Napolitano. È meglio parlare di Friedman, è meglio parlare di queste cavolate qui, ma io porto dei dati che invece sono molto più inquietanti di quelli che delle sparate giornalistiche. Scusami Paolo, un'altra cosa, ma Napolitano che ruolo ha avuto, quello di burattinaio di questa operazione? Diciamo la verità. Certamente, io con tutto il rispetto che ho per l'autorità e non ce l'hai, riconoscere che è stato il regista dell'intera operazione, questo credo che sia, e di quello che è venuto dopo. Vabbè, certo, quello è un altro discorso. Parenzo, che dici? No, io dico solo all'amico Becchi questo, all'ideologo Becchi questo, che i mercati internazionali ritenessero l'Italia la latrina d'Europa assieme alla Grecia. Ma che c'entra questo? Non c'entra, perché non è che c'è stato un cuzzo telefono. Ah, no, senti, non ti posso sentire con questo telefono, guarda, mi stai facendo veramente venire il mal di testa. Allora, voglio chiedere a Becchi una cosa, per quello che ha fatto, per essere stato il regista di questa operazione, andrebbe messo sotto accusa Napolitano? È stato messo sotto accusa? No, vabbè, andrebbe accusato, andrebbe processato adesso, al di là della... Ma della... io credo che la messa in stato d'accusa presentata dal Movimento 5 Stelle... Oggi è ancora più attuale, tu dici tu. No, ma lo diventerà attuale ancora di più, te lo dico subito, dopo le elezioni del 25 di maggio. Ah, cioè perché? Perché? Perché il 25 di maggio vincerà, ormai è abbastanza sicuro, Movimento 5 Stelle. E dunque, dopo? E a quel punto saranno costretti a fare un governo di unità nazionale per eliminare il Movimento 5 Stelle. Ma io non so che cosa succederà in Italia dopo. E che succederà? Io non te lo posso dire, ma se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere le elezioni e Napolitano partisse dall'idea che facciamo un governo delle larghissime intese di unità nazionale per combattere il Movimento 5 Stelle, io credo che questo sarebbe un grandissimo attacco alla democrazia. E dunque? La gente scenderà in piazza. Come il popolo c'è un potere costituito e un potere costituente. Il popolo può sempre riprendersi il potere costituente quando vuole. Con la forza? Non lo so, io non sto dicendo con la forza o meno, però voglio dire... Tipo assalto al Quirinale, insomma. Se vinci delle elezioni di questa vittoria non si tiene conto, mi sembra che sia un fatto gravissimo per un paese democratico. Cioè è legittimato in questo caso anche, che ne so, è legittimato una manifestazione popolare con la presa del Quirinale, che ne so? Ma io guarda, non lo so, non ho la minima idea. Non lo escludi, di non lo escludi però, non lo escludi. Fare. Certo che il tradimento di una volontà popolare, anche se si tratta di elezioni europee, cioè non possiamo negare una cosa, Giuseppe, che queste elezioni, soprattutto per noi... Adesso ne parliamo, ci arriviamo, traffico. La zanzara stronza. Dobbiamo mandarlo in pensione, Parenzo. Che gira, che ronza, va zonza. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara con il professor Paolo Becchi. Non so se posso dire no, ideologo non si dice più. No, io guarda, molto vicino al Movimento 5 Stelle. Sì, dai. Io vi sto portando un pensiero che secondo me, al di là del Movimento 5 Stelle, è un pensiero diffuso. Se insomma se un movimento politico diventa addirittura la prima cioè forza... Che succede se vincete le elezioni? Mi dica subito la prima conseguenza. Napolitano deve andare a casa? Ma io penso di sì, nel senso che è fallito completamente il suo programma, il suo progetto politico. Dovrebbe avere la coerenza di dire: io le ho provate tutte, sono 2 o 3 anni che le provo e non funziona più questo sistema di larghe intese. Pensare di fare un governo di unità nazionale contro il Movimento 5 Stelle, io penso che, cioè, mi sembra veramente un'ipotesi. Ma lei se lo immagina? Lei se lo immagina Napolitano che dà l'incarico a uno dei 5 Stelle di formare il governo? Che ne so, a casa lei? Questo non è possibile. È per quello che penso a eventuali dimissioni. Parenzo? Napolitano non farà mai una cosa del genere. Che c'è? Che dici? Non ho capito. Pazzo, ma adesso mi incazzo però, mi avete rotto i coglioni. Tu e lui che gli dai Bordone anche. Ma tu Bordone che cosa? Sto ascoltando. Gli dai Bordone, lo lisci, gli dai Bordone. Gli dai, bordo. Ma no, e fammi della critica, fammi una critica, allora, io cerco di... Ma innanzitutto c'è una cosa che voglio dire, professor Becchi. Ho letto che lei ha un pensiero della buonanotte, così alleggeriamo un attimo il discorso. Ha scritto pensiero della buonanotte: quando si accende il sesso, si spegne la ragione. Ma sì, ogni che tanto... voleva dire, scusi professore, mi spieghi bene? Volevo dire che ci sono dei momenti affettivi, personali, individuali, eccetera, che superano qualsiasi tipo di ragione, che l'uomo non è soltanto ragione, ma che l'uomo è anche passione. Ogni tanto, alla sera, quando sono stanco, lascio un pensierino della buonanotte, così, insomma. No, ma infatti ho letto, cioè, in quel momento io stava da giù un po', cioè, stava dando, come dire, la famosa stoccatina, cioè, la famosa pizzicatina, o no? Ma sì, ogni tanto mi fa piacere, ma mi sembra che è un pensiero abbastanza comune, ma anche dopo tanti anni di matrimonio ogni tanto qualcosina si fa, professor Becchi, o no? Vabbè, ma certo, ma perché no? Scusa, il matrimonio non è che finisce perché cioè ti sei sposato e basta. Beh, guardi, ho tanti esempi a riguardo, esempi. Però comunque sono contento che lei mantiene, come dire, una certa attività. Dunque le fistole anali vanno meglio da questo punto di vista. Ma guarda, è stato un miracolo. Direi che da questo punto di vista io mi auguro solo che prima o poi di pubblicare anche quell'altro mio libro. Oh, è un miracolo, adesso, cioè, è guarito dalle fistole anali. Giuseppe, ti volevo dire una cosa. Io ti ringrazio e ringrazio gli ascoltatori e il programma, perché paradossalmente, a parte una discussione accanita con Cattari 8 e mezzo, sì, di questo libro non bisogna parlarne. Parlano di tutto tranne di un libro, che poi è un libretto. Ma quale dici? Il colpo di stato permanente. Ah, vabbè, ma il colpo di stato permanente ha anticipato quello che sta succedendo adesso, secondo proprio te, così, secondo esatto, queste teorie, Parenzo, esatto, Parenzo, proprio... rispondi. Guarda, ero più interessato alla notizia del giorno, cioè che il professor Becchi torna a far l'amore con sua moglie. Questo ma non è che torna, non ha mai. Allora, quei lavori li faccio di notte, scusami, non di giorno. Non ha mai smesso in realtà. Ma dunque, le fistole anali, possiamo dare questo annuncio? Il professor Becchi dice: sono guarito dalle fistole anali. Ma sì, direi di. Ma toccando ferro, perché sai, queste cose possono sempre ritornare, ma al momento sì. Grillo fa bene ad andare da Vespa? Guarda, questa è una domanda effettivamente corretta, no? Perché uno può dire, ma sempre... Beh, nel 2010 diceva che erano tutti negli ectoplasmi, no? La televisione guarda, fa schifo, io Vespa, mi sono fatto questa idea, che probabilmente il movimento non riesce ad arrivare ad un certo pubblico, a un certo gruppo di persone, soprattutto le persone anziane, soprattutto quelle che guardano la televisione, che magari leggono poco i giornali, oppure in ogni caso non... Dunque non fa bene ad andare. Secondo me penso di sì, per avvicinare questo pubblico ha fatto bene, ma vuol dire questo, se l'ha fatto è perché rischia qualcosa dicendo io questa volta ce la metto tutto per diventare il primo. Cioè sta rischiando perché dice... Ma mi dica la prima cosa che succede in Italia se il Movimento 5 Stelle dovesse superare il Partito Democratico domenica 25, la prima cosa che succede qual è? La prima cosa penso sarà una festa popolare, perché sotto il Quirinale sarebbe il top, sarebbe il top. Non ho la minima idea, ma immagino una festa da parte di tutta vabbè, poi? E poi non lo so, poi ci saranno ovviamente delle prese, cioè immagino che il movimento faccia presente a livello politico che insomma... Senta, se lei dovesse rivolgere una bella cosa alla Merkel, una roba seria, una roba, cioè, sa come si dice in tedesco, no? Come dice Grillo alla Merkel in tedesco? Come si dice? Va? Come si dice in tedesco? In tedesco? Che cosa? È quello che dice sempre Grillo, va? In tedesco. Ma lo dice in Lech mich am Arsch, si dice in tedesco. Lech mich am Arsch. Cioè vai a fare il culo? Sì, letteralmente sarebbe leccami il culo, insomma. David, senti quello che è successo oggi alla Camera, dove si discuteva dell'arresto di Genovese, dell'autorizzazione per l'arresto che poi è stata concessa, No, vediamo che poi è stata concessa. Senti questo, se non parli bene non sento una mazza. Ma solo al telefono fisso della radio. Senti questo, Attaguile, deputato del PDL, candidato alle europee per la Lega, incredibile, numero 2 dopo Salvini nella circoscrizione Meridione. Senti che cosa dice la Camera. Mi ricordo che Mino Martinazzoli, che era anche il mio difensore, mi disse che noi siciliani avevamo l'autonomia dal diritto. Non vorrei che con questo voto sia la Camera dei Deputati ad avere l'autonomia dal diritto. Mi sembra concluda, che siamo... veramente sì, deve concludere. Concludo veramente, ma mi faccia parlare che la cosa concluda, perché lei è già andato oltre. Stiamo assistendo a un film western dove, per placare alcuni giustalizi sì, impicca, mi fa innervosire, Presidente, mi scusi, è una cosa con cui mi ricordano tanti tristi motivi. Io capisco la sua memoria, però lei veramente deve concludere. No, ma vi prego, rimettetelo, vi prego, rimettete no, questo vabbè, pezzo finale. Sai cosa mi fa più specie a me? Cosa? La voce della Presidente Boldrini, proprio. Ma che c'entra adesso? La Boldrini in questo caso non ha fatto niente, l'ha no, interrotto. A me mi sta sulle palle quella voce, questo è ma chiaro. Ma proprio, solo, questa è la cosa più inquietante. Isolano quel minuto, quei 40 secondi, isolano. Deve concludere. Impicca mi fa innervosire, Presidente, mi scusi, è una cosa con cui mi ricordano tanti tristi motivi. Io capisco la sua memoria, però lei veramente deve concludere. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Siede la Camera all'arresto per Genovese dopo un lungo braccio di ferro tra PD e 5 Stelle, l'intervento di Renzi, nessun rinvio e voto palese. Dopo la nota del Quirinale Berlusconi insiste, le mie dimissioni furono responsabili ma non libere, serve una commissione d'inchiesta. L'Italia non cresce, il PIL torna negativo, mai così male dal 2000, borsa a picco, risale lo spread, il governo il taglio IRPEF e rilancerà la ripresa. Firmato a Palazzo Chigi l'accordo su Electrolux, né licenziamenti né esuberi, il sollievo degli operai che sciolgono i presidi davanti agli stabilimenti. Sull'Expo ora indaga anche la Corte dei Conti, non si ferma lo scontro in procura a Milano, Boccassini difende Bruti, interviene l'Associazione Nazionale Magistrati. Ancora da identificare molte delle vittime dell'ultimo naufragio di migranti in una casa famiglia di Giarre e i due bambini che hanno perso la mamma e il papà. Ancora 100 dispersi nella miniera turca, 282 corpi recuperati, sotto accusa alla società proprietaria e il governo per le pessime condizioni di sicurezza. Well now, little mosquito, there must be. La mitologica Cris Cuolo, beh, grandissima, eh? La donna con cui Scaiola ha trascorso l'ultima notte, ha trascorso, ho detto, una parte dell'ultima notte prima di essere arrestato. Rosa Cris Cuolo, che dice si è addormentato prima che me ne andassi. Ma si è abbattuto prima che me ne andassi, credo. Si è addormentato. Guardi, secondo me questo signore, questo politico, così come Nicola, eccetera, eccetera, innamorati della politica, sono stati feriti nell'unica cosa in cui credevano e l'unica cosa che amano. Non ci sono andata a letto. Non ho incarichi, non ho cariche, ho conti correnti prosciugati e vi rispondo no, non ci sono andata. Me la cavo, però una cosa ingiusta che io devo dire, io non sono rifatta, vi prego, almeno questa cosa qua, sono una bella donna del sud naturale, voglio difendere questa cosa. And God loved me when he made me the same as he loved you so. Siamo qui, la Zanzara. Fra poco vi faremo sentire l'assalto di Beppe Grillo a Luca Telese, caro Parenzo. Ieri a Novara, a nostro amico Telese, l'ha trattato proprio come una pezza da piedi. Professore? Sì, sono qui, ditemi. Senta, sì. Con gli 80 euro di, con gli 80 euro di Renzi, lei cosa ci fa? Io non guarda, francamente questa storia degli 80 di euro, che poi non so se saranno reali o meno, sì. E mi sembra un po' la storia di Achille Lauro, no? Della scarpa che ti dava prima delle elezioni e poi te ne dava una dopo, ma è una cosa vergognosa, cioè, non come Achille Lauro che distribuiva. Eh sì, non si possono comprare i voti così in questa maniera. Capisco che 80 euro con i tempi che corrono possono far piacere, però insomma è una mancanza di dignità, non possiamo, questo è proprio voto di scambio, cioè è veramente voto come ci fa ritornare in mente Achille Lauro quando a Napoli distribuiva le scarpe. Parenzo, che c'è? Non ho capito. No, guarda Becchi, ti voglio dire questo con tutto l'affetto, sei più credibile, ma con amore te lo dico, quando parli delle ragazzi e del sesso con la signora. Ma perché non può avere l'opinione? Io la penso come lui, per esempio. Guarda, se la pensi così, aiutami a pubblicare la mia anatomia del dolore, così ti diverti con una fistolona immensa. Ma non ho capito, uno la deve pensare per forza come te, Davide, non ho capito. No, non devi pensarla come me, no, assolutamente, non dico questo. Ma adesso mancano solo gli UFO ormai, gli UFO, cioè su questa storia stanno costruendo. Ma quale storia? Non ho capito, uno non può dire. Adesso non ho capito, la storia del mio culo quale? Non so, quale storia? La storia degli 80 euro, perché non... Su quello nulla questio, professore, quello nulla questio, guarda. Senta, lei è contento, professor Becchi, dell'arresto di Genovese, del probabile arresto di Genovese, della decisione della Camera? Qualcuno dice Grillo che ha costretto Renzi, in realtà altri dicono la partita l'ha vinta Renzi. Ma guarda, io... Un Parlamento pulito con una persona che comunque viene accusata di associazione per delinquere, qualcos'altro, riciclaggio, che ne so io, deciderà poi la magistratura, penso che sia giusto che sia andata così. Io non criminalizzo nessuno, però che la Camera abbia dato l'autorizzazione mi sembra un fatto importante. Io sono per l'idea che nel Parlamento ci devono essere delle persone pulite, magari poi lui lo sarà anche, non lo so, però c'è un'indagine in corso ed è giusto che la magistratura faccia il suo lavoro. Senti, una sola parola, cosa ha fatto secondo lei Renzi fino adesso? Proprio in una semplicissima parola, di quelle che sa usare lei, professor Becchi, di quelle semplici. Un cazzo. Ah, così proprio, eh? Sì. Ah, non ha fatto un cazzo. Esatto, sì. Farenzo? No, vabbè, questo è, voglio dire, parere del cittadino, come direbbe Re Grillo, no? Il cittadino è legittimo, come lui lo pensa. Ma dimmi che cosa ha fatto? La legge elettorale a febbraio, il 27 febbraio ci sarà la legge elettorale, ci abbiamo la legge elettorale, il mese dopo ci sarà la riforma del Senato, ci abbiamo la riforma del Senato e non abbiamo niente. No, anzi addirittura dell'Italico non se ne parla neanche di più, il Senato boh neanche quello, ma te ne rendi conto, scusami, queste erano le prime riforme istituzionali. Io sono rimasto alla boiata che hai sostenuto all'inizio di questa straordinaria trasmissione col signor Cruciani, che più che da Bordone, questa è l'altra cosa, ma non importa, addirittura hai detto che nel caso il Movimento 5 Stelle, perché questo è il punto sul quale bisogna tornare, dovesse superare il PD, grande manifestazione, questo va benissimo, chi se ne frega, assedio al Quirinale. No, io non ho parlato di assedio al Quirinale, ma ci mancherebbe altro. Quirinale, io ho detto che dovrà cambiare qualcosa anche in Italia. Io ho detto, non lo so con quali termini, ma penso che anche se queste elezioni sono europee, hanno un significato politico, ecco, per il nostro paese, perché Renzi ha bisogno di una sua legittimazione, questa mi sembra chiara, non avendola finora avuto, e se non l'avesse dovrebbe andarsene. Ma la gente, se vince il Movimento 5 Stelle e il Presidente della Repubblica, che fa la gente alla fine? Il popolo. Non so cosa faccia la gente, si tratterà di vedere. Il vostro popolo che fa? Il vostro popolo, mettiamo che è Napolitano, non molla, il vostro popolo che fa? Questo come te lo posso dire io? E che ne so, che secondo te che dovrebbe fare? Tu che cosa faresti? Metti che non molla Napolitano, voi vincete le elezioni, si fa un governo delle grandissime intese, tu io Paolo sarei, Becchi, cosa faresti? Bisognerà vedere come, ma è inutile fare questi discorsi, bisognerà vedere se per esempio per fare un governo della larga intesa ci vuole di nuovo un accordo con come si dice lì, con Forza Italia, non lo so, io non sono un indovino, io faccio un'analisi politica della situazione, dico semplicemente questo, che queste elezioni, è vero che sono elezioni europee, ma si stanno caricando di un significato politico. Quello lo sappiamo. Sia per Renzi, perché Renzi ha bisogno di una legittimazione popolare, sia per le altre forze politiche. Se dovesse rivincere il Movimento 5 Stelle, io credo che all'interno del nostro paese se ne dovrà in qualche maniera tener conto. Vabbè, ma quello lo possono dire tutti, lo so. Vabbè, grazie, a presto. Figurati, ciao. Le zanzare fanno male, ma lo fanno per amore. Se le iene portano grazie di questa introduzione. Vi regalo, voi che siete super berlusconiani, sicuramente lo si vede dalla faccia, certo. Lo si vede subito, la prima impressione è che siete ovvio. Sicuramente dei berlusconiani di ferro, che avete sempre votato il Cavaliere. Vi regalo un Berlusconi su Dell'Utri e Scajola. Dell'Utri, Scajola, Cosentino, poi Bonaiuti che se n'è andato. E sono dove persone ha che hanno lei? Loro storie personali, mi addolora che abbiano avuto queste cose, ma sono da tempo, non partecipano più alla vita del partito, non sono mai stati... Però sono stati molto importanti, alcuni non sono mai stati neppure candidati, e altri sono stati candidati, ma non lo sono più né nelle elezioni nazionali né nelle elezioni europee. Ma tu sapevi, Parenzo, che c'era un gruppo che si chiamava Ballanzasca? Il nome diciamo che non sia un omaggio a quel Ballanzasca lì. Certamente al criminale Ballanzasca. Ci sono qui Davide e Lucio, sì, che ci accompagneranno per qualche minuto. Sono in sintonia perfetta con Ma io per questo l'ho mandato, perché abbiamo, come dire, sentito Berlusconi, Dell'Utri e Scajola, che da tempo non erano nel partito, perché vengono trattati praticamente come degli estranei, capito? Come degli estranei. Va bene, Maurizio da Lucca, siamo qui. Eccomi qua. Vai. No, io volevo fare un intervento sul professor Becchi. Lì io sono in antitesi con le idee di Grillo, sono veramente dall'altra parte. Però in una cosa sono d'accordo. Su che? Pesantemente redarguito ad aprire bocca, perché tutte le volte che questo professore apre bocca il Movimento 5 Stelle è in caduta libera con i sondaggi. Dice un sacco di stupidaggini che veramente si fa fatica anche a non tagliere. Non penso che le cose che dice il professor Becchi abbiano rilevanza per i sondaggi dei 5 Stelle, insomma, ragazzi. Penso che qualche voticino lo perde. Farebbe bene Grillo a denunciarlo ad aprire bocca. Dai, Guglielmo Napoli, buonasera. Tutti. Sì. Caro Cruciani, lei è un giornalista con una veduta a 360 gradi. Ma con una trasmissione ironica, fantasiosa, intelligente, informativa. Ma gliel'ha ordinato il medico la collaborazione con quel pirla di Parenzo? Il medico non me l'ha ordinato. Come si è svegliato stamattina? Prego? Guglielmo, come si è svegliato? Si è svegliato male stamattina. Benissimo, con due cervelle belle appese, fresche appese al chiodo. Con due cervelli freschi e appesi a un chiodo. Ma ogni tanto lo riprende e se lo rimette nella scatola cranica, altrimenti spara cazzate, Ma io penso che lei si debba mettere un'altra cosa nella scatola cranica. Per radio è meglio che non gliela dico. No, la dica, non c'è problema. La dica pure. Lei nella scatola cranica deve mettere un po' di fosforo, perché ne manca parecchio. Vabbè. Marco Teramo. D'accordo. Vabbè, dai. D'accordo. Ci sta tutto. D'accordo? Sì. Marco, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Prima di tutto volevo dire un attimo il professor Paolo. Becchi, perfetto, che mi stimo molto. Il tedesco non è Lechmich Amash, come diceva lui, il vaffadei, il vaffangulo, ma è Ashloch. Come si dice in tedesco vaffanculo? Ashloch. Sì, ma lui ha detto un'altra cosa, però, in realtà. Ha detto leccare il culo, che è quello che secondo lui fanno i governi italiani alla Merkel, capito? Sì, ho capito, però vaffangulo è Ashloch. Vabbè, ho capito, Marco, ma qui non siamo a lezione di tedesco, cioè non c'è bisogno. No, volevo dire un'altra cosa. Cosa? Nel caso in cui dovesse vincere il 5 Stelle alle europee, sì. Cioè, c'è una sola cosa da fare, andare alle elezioni anticipate, altrimenti avremmo il quarto governo tecnico, giusto? Vabbè, ho capito. Ma che ci mettiamo, Del Rio? Del Rio, no, non so. Anzi, no. Che c'entra Del Rio? Perché bisogna mettere per forza Del Rio? Perché? Non ho capito bene. Ci mettiamo Parenzo. Ma che sciocchezza, ma perché deve dire solo sciocchezze? Che lui si fa le canne, ma non lo dice, non delude mai le mamme. E Giovanardi anche lui si fa i bong, ed è per questo che lo batto sempre a ping pong. E ganja Giovanardi marijuana, e ganja Giovanardi marijuana. e giovanardi marijuana ganja mariua e giovanardi marijuana ganji tutte le canne che ho. Oh, tutte le canne che ho. Un regalo per Giovanardi. Oh, tutte le canne che ho. Oh, tutte le canne che ho. Oh, tutte le canne che ho. Capito, Parenzo? Chiaro? Giorgio gradito. Da Ragusa, fammi sentire Giorgio da Ragusa. Gradito. Signori Ballanzasca, signori Ballanzasca. Ciao. Dimmi, dimmi. No, ma non si sente niente, Giorgio. Non si sente niente, devi togliere il viva voce, l'auricolare, quello che vuoi. Vabbè, arrivederci, Simone della provincia di Pesaro. Io non sopporto quelli ormai che si sentono male, non so perché, non sopporto. Simone, vai, Simone, vai. No, dicevo, il comune di Roma ha 25.000 dipendenti, sì. Un comune che rischiava di fallire, sì. Hanno scioperato tempo fa perché non gli davano più il premio, e il comune di Roma non trova 5 persone per il Colosseo, no, questa è, sì, è un po' più dopato. Complessa la storia, però lei ha ragione, sì. È un paese dopato. Sì, lei ha ragione, per carità, è una vergogna assoluta, non è questione di 5 persone, è questione che queste 5 persone non lo vogliono fare, cioè questi, gli anziani... Ma non fa niente, ma quanto un comune ha 25.000 dipendenti, che non so perché, non so quante aziende in Italia hanno 25.000 dipendenti, no? Sì. E se ne prendono 5 si mandano lì, cioè se vogliamo cambiare le cose bisogna che cominciamo a ragionare in questa maniera qui, perché questi, se non c'era il Salva Roma, non avevano... paga zero, voglio dire, no? Come molti altri comuni d'Italia, si obbligano le persone, se no si licenziano. Sì, no, ma a parte che è stato raggiunto l'accordo per cui la notte dei musei, il Colosseo resterà, alla fine sarà aperto, perché alla fine poi quando c'è l'emergenza eccetera, ma queste cose solo in Italia accadono, solo in Italia. Gianni da Torino. Sì, buonasera Cruciani, io chiamo Dimmi. Perché vorrei dire una cosa a Parenzo. Dunque, caro Parenzo, lei ce l'ha sempre, sempre con sto movimento. No, dipende. Scusi, mi sente? Sì, dipende, dica. Ogni tanto quando... Allora, io non riesco a capire, no? Al di là del fatto ma che... Non è che ce l'ha a prescindere, capisci? Perché va sempre contro il movimento che alla fine poi i fatti hanno dimostrato che avevano ragione. L'Expo è proprio l'esempio lampante. Ecco, ad esempio, questa per me è una bestialità, so che la sostiene anche Cruciani, ma dire... A parte che le posizioni del Movimento 5 Stelle sull'Expo sono state diverse in tutto questo periodo. No, ma Grillo le disse già quando iniziavano a fare che c'è... Ecco, io sono tra quelli, ditemi che sono un burocrate, ditemi che non capisco un cazzo, ma che ritiene invece che dire oggi l'Expo va chiuso è una puttanata. No, ma non io sto dicendo che va chiuso, io sto dicendo di tutto il magna magna che c'era. Ah, è arrivato lui. Ci voleva la telefonata delle 19.43 alla radio, alla Zanzara. No, Parenzo, ascolta, Parenzo, no, no, ci no, no, Parenzo, dire fammi finire, fammi finire. Magna, magna. Volevo ma guarda, che non lo cosa, sapevo, sai? Una, ma guarda che non lo sapevo, Genio Lampada. Ascolta. Però guardi, mia sera, non faccio il giornalista, lasci perdere. L'ho visto l'altro giorno alla Zanzara, alla gabbia. Beh, ma che c'entra? Che c'entra? Intervistare la pene, è veramente ridicolo. È stata la cosa più divertente che abbia sempre col merito della sua opinione, io la rispetto anche, figuriamoci. Io me la prendo con lei che dici c'è il magna magna, c'è uno ma telefona sì, dopo giorni che ci sono paginati, no, ma quello sui giornali, che, no, forse lei mi ha frainteso, non è che 24 e cosa dice Cruciani c'è il magna magna. Oh, allora, se lei vuole far finta di non capire, va bene, allora facciamo sto teatrino e va bene. Mi punto è che lei ce l'ha sempre con voi. Addirittura io l'altra volta che telefonai per lo stesso motivo, perché insultò pure coloro che vanno a vedere Grillo, perché ci trovò deficienti perché andammo a pagare il biglietto. Tu hai detto, Parenzo, sì, che Grillo ha portato in Parlamento dei... Che hai detto? Avevo detto, no, hai detto dei dementi, dei cialtroni, una no, cosa no, del genere. Gentaglia avevo Gentaglia, detto. Gentaglia. Fausto dalla provincia di Roma, Fausto. Avevo detto quello, sì. Fausto, provincia di Roma. C'è, non c'è? Claudio da Bari, chi c'è? Fausto, chi c'è, ragazzi? Chi c'è? Chi c'è? Claudio. Pronto? Sì, dimmi. Pronto, senti, posso conferire con Cruciani? Sì, conferire sì, conferire si allora, conferisce con i professori. Io volevo esprimermi sulla questione degli 80 euro che stai sì, schifando da ormai settimane. Non sto schifando, sto dicendo che non sono d'accordo. È possibile non essere d'accordo sul fatto di certo dare 80 euro o no? Ah, ecco. D'accordo. Grazie, proprio per questo. Grazie, grazie. Proprio per questo voglio sapere qual è l'asticella sì, da superare per poter schifare gli 80 euro. Ma cosa c'entra? Io non li schifo in assoluto gli 80 euro. Vorrei capire quanto bisogna guadagnare per schifarli. Ma non c'entra nulla, amico mio, non c'entra niente. Vorrei sapere quanto guadagni tu. Ma sono cazzi miei quanto guadagno io. Non ho capito, Claudio, non ho capito. Vabbè, stasera va così, ragazzi. Vittorio da Bergamo. Ciao. Dimmi. Buonasera. Dai. Buonasera, Cruciani. Allora, ero incazzato nero prima, adesso mi è passato un po', intanto che sono stato a prendere il telefono. Uno come te bisognerebbe menarlo, però te lo dico pacatamente. Pacatamente, poi sempre pacatamente. Sì, certo. Perché sei una persona intelligente, però sì, sì, non hai senso della misura, nel senso che quando tu fai parlare quello lì prima mezz'ora, questo Becchi, sì, che dice che c'ha le fistole anali, ma secondo me le fistole ce l'ha nel cervello quello lì. Cioè, possibile che, voglio dire, non, e gli dai corda, gli dai bordone, te l'ha detto anche Parenzo, ma poi tu Parenzo lo tratti come un pirla e ormai, allora? Ormai anche gli ascoltatori. Sì, ma che vuoi da me? Così. Non ho capito, anche voi, Vittorio, non ho capito che vuoi. Volevo dirti che non hai senso della misura e fai dei danni incredibili. Io faccio danni. Ieri sera hai detto che tu ti favi perché Dell'Utri se la sfangasse. Io sì, faccio il tifo. No, faccio il tifo. Mi piacerebbe che la sfangasse Dell'Utri. Perché tu fai gli spot, tu sostieni i delinquenti, i farabutti. Io non sostengo nessun delinquente. Fai un danno. Se ti ha tolto una persona poco informata, dice: ma allora perché? Cosa gli stanno facendo questo Dell'Utri? Ma io allora, una persona. Se un giornalista intelligente come Cruciani, guarda, io non sto difendendo nessuno. Io ho detto. Tu sei, voglio dire, non ti rendi conto, ma forse per fare degli ascolti, ma prova un po' a ragionare un pochino questo Vittorio, cinismo qua. Vittorio, se io dico una cosa, significa quella, appunto, non significa che io penso che sia, io credo che il reato di concorso esterno sia una roba un po' inventata, che il processo è durato troppi anni e che sinceramente se la cava in Libano, se sta lì in Libano a me non me ne frega niente, anzi da un certo punto di vista sono pure contento. Le zanzare fanno male, ma lo fanno per amore. Se le iene portan bene, le zanzare sanno amare. I Ballanzasca con noi qui in studio. In collegamento da Roma, Augusto Minzolini, buonasera, Forza Italia, come stai? Buonasera, ciao, come stai? Tutto bene? Bene, Parenzo, il tuo nemico storico, no, il tuo nemico storico Augusto Minzolini è tornato con noi alla Zanzara. No, ma io guarda, che c'è catastrofe. Voglio raccontarti solo questi 30 secondi. L'altra sera ero a casa, non sapevo che cazzo fare, ero da solo, e mi sono rivisto il film Ecce Bombo. Sì, sì, e perché c'entra la parte migliore di Minzolini. Vabbè, mamma. Catastrofe non cambia, è diventato tragico ormai, dai. Però scusami, tu stai dicendo così. Ma lo dico con amore. Vai, con amore, sì, con amore. Pensa se lo dicevi. Io lo dico con amore. Pensi No, io con simpatia, vediamo un po' più avanti. Senti, Augusto, dimmi una cosa, ma la questione del complotto, no? Tu veramente pensi che lì c'è qualcuno che ha tramato contro Berlusconi oppure i governi europei che volevano fare la cosa, cioè è una cosa seria? Per me è una cosa seria, ma non contro Berlusconi, hanno tramato contro il nostro paese, in quel momento c'era. Vabbè, d'accordo. Ma guarda, poi diciamoci, ormai è il segreto di Pulcinella. Se tu immagini che la prima volta che è uscita una notizia del genere, che parlava addirittura di una telefonata della Merkel a Napolitano dicendo toglimelo di torno all'incirca. Beh, questo non è mica ufficiale. Wall Street Journal, penso un anno dopo, diciamo, le vicende, nel 2012. Poi la stessa cosa, poi ne ha parlato Bini Smaghi, poi ne ha parlato Zapatero, poi nel libro di Friedman, cioè in un modo o nell'altro. Cioè ormai è sicuro. Ma non è che è sicuro, ha una sua logica, cioè nel senso lì c'è stata un'operazione, visto che l'Unione Europea... Ma Napolitano che ruolo ha avuto in questa operazione? Napolitano che si è... non so se consapevolmente o inconsapevolmente, visto che ci ha cibato, ed è il problema che noi abbiamo adesso, per vent'anni di retorica europeista, mentre diciamo, i nostri partner europei vanno a Bruxelles per fare i loro interessi e per difendere i loro interessi, come è giusto. Noi invece abbiamo una sorta di retorica per cui in ogni caso sono loro che hanno ragione, è Bruxelles che ha ragione, ed è infatti ci ritroviamo in questa situazione. Lì c'è stato un problema di fondo, c'erano le banche tedesche e le banche francesi che erano estremamente esposte con il debito greco, spagnolo, e quindi che cosa è successo? Bisognava fare un'operazione per evitare che fossero loro a pagare, quindi noi con una speculazione, perché è stata una speculazione quello dello spread, alla fine della festa, te la faccio in termini molto semplici, ecco, abbiamo pagato la crisi per loro. Ho capito, ma vuol dire, secondo te, che bisogna fare adesso? Qualcuno dice la commissione d'inchiesta, però risparmiateci sta cosa della commissione d'inchiesta, per carità, è una roba che non si può sentire, dai, basta con le commissioni d'inchiesta, non servono a niente, o sbaglio? Guarda, io ti dico una cosa, io non so, troviamo una qualunque modo, ma dobbiamo in ogni caso parlarne e confrontarci. Vabbè, ma parlare... Addirittura, ti posso dire, ma tre anni fa... molto chiari, qualche tempo fa, ti ricordi, Grillo tirò fuori l'ipotesi di un impeachment. Io non è che ero, diciamo... Eri quasi d'accordo. Più volte ho detto che ero d'accordo, ma ero d'accordo soprattutto perché almeno si faceva, diciamo, una riflessione come paese su un argomento che è toccato a Berlusconi, ma in futuro potrebbe toccare anche ad altri. Questo è il punto. Il punto è che noi non abbiamo un'idea di interesse nazionale che sia condivisa. Vabbè. Nel senso che nello schema Guelfi e Ghibellini poi c'è qualcuno più furbo da fuori che subentra, che interviene e che fa i suoi comodi. Senti, però Parenzo, io volevo chiedere una cosa, al di là della questione del complotto, vediamo come finirà, volevo chiedere una cosa a Mizzolini, perché insomma sta spending review che Renzi vuole fare alla RAI, no? Si potrebbe iniziare pure dal tuo stipendio, caro Augusto. Il problema, ma guarda, non sto pensando al mio stipendio, perché, ma innanzitutto è stato di quando tornerò, non... io faccio un ma il tuo stipendio aspetta un attimo, il tuo stipendio che ricordiamo è di 540.000 euro lordi, ma non prendo adesso, se tu non lo prendi, i telespettatori pensano non lo prendi perché stai in aspettativa, ho capito, però è lì dormiente sto stipendio, nel senso, cioè, ho capito, la questione è se mai tornerò in Rai, no, scusami, dovessi tornare in Rai guadagneresti questo, ma adesso con la spending review annunciata dai dirigenti, questo qua diminuisce o resta il tuo stipendio? Resto qua, non te lo so dire, perché questa è una cosa che stanno, io quello che dico è un'altra cosa che non riguarda di fatto la vicenda, diciamo, degli stipendi o meno, cioè, nel senso che mi sembra abbastanza paradossale che improvvisamente un presidente del Consiglio salta e dice: beh, mi servono 150 milioni da quell'azienda, e la tiro fuori. Cioè, è questo che è un po' l'assurdo. Che è un po' l'assurdo anche. Ma perché è assurdo? Scusami, uno vuole fare risparmiare la RAI. Finalmente uno che vuole fare risparmiare la RAI con tutti gli sprechi che ci stanno. Ma uno quello si può anche fare, cioè, nel senso, però il problema è che da questo punto di vista non è che tu fai. Tanto per essere chiari, se tu me lo fai a maggio, non sono 150, sono 300, perché stai a metà dell'anno. Chiaro. Allora io quel discorso che faccio è un altro, con molta chiarezza, è che se tu fai un'operazione adesso e vai a vedere i conti nell'anno in cui ci sono i diritti sportivi, tu metti quell'azienda in grave difficoltà. Vabbè, ma è al di là di questo. Allora il punto qual è? Devi metterla in grave difficoltà, perché di fatto in questo momento, perché tutto questo avviene prima del 25 maggio, perché stai in campagna elettorale, quindi devi fare programmi, devi abolire. Ma tu il Senato, quando uno dice. Io francamente ti giuro, cioè, non lo trovo serio. Purtroppo non lo però trovo scusami serio. Un attimo, uno che dice, Augusto, uno che dice la RAI non è dei conduttori e non è dei sindacati, ma è uno come te dovrebbe essere d'accordo. Ma cioè, io sono d'accordo, però sono proclami, tu dici che sono proclami. Allora, io dico sempre una cosa, ecco, te la dico, quello che io di fatto rimproverò a Renzi. Renzi di fatto dimostra che quello che penso io, che ho pensato in tutti questi anni, ormai è diventato, esercita una sorta di egemonia culturale, perché i discorsi che fa lui su fisco, su Rai, su sono gli stessi che faccio io. Il problema qual è? È che insomma, lui improvvisa, nel senso, viene da una cultura che non è quella, ecco perché poi uno rimane proprio, viene da una cultura che è completamente diversa, e visto che lo fa in termini demagogici, poi allora rischiamo di dirlo e poi di non farlo. Vabbè, ma il tuo stipendio, ma non mi puoi legare, ti faccio un esempio, non è che mi puoi legare questo sul decreto degli 80 euro, perché è un non senso. Vabbè, ho capito, però alla fine io vorrei capire una cosa. Allora ti posso dire, i temi che lui solleva sacrosanti, ma sono stati sollevati probabilmente prima di me da tanti altri. Il punto qual è? È come poi li mette in pratica che a me mi lascia perplesso, anche perché se fai operazioni del genere le fai male, poi sputtani quei temi, come se non ci fossero, come se fossero sbagliati. Vabbè, adesso torniamo, dopo la pubblicità torniamo. Generazione di fenomeni, generazione tutti anonimi, degenerazione. Generazione di fenomeni, generazione tutti anonimi, degenerazione. Degenerazione. Grazie Valanzasca per essere stati con noi oggi. 800 24 00 24, questa è la Zanzara e siamo in collegamento con Roma, dove c'è Davide Parenzo dallo studio di Radio 24, anzi da un telefono dallo studio di Radio 24, il senatore Augusto Minzolini, Forza Italia. Chiedo subito a Minzolini se nella disfida che si è aperta tra Renzi e Floris ha ragione il Presidente del Consiglio oppure il conduttore di Ballarò? Guarda, io penso in questo caso sugli argomenti utilizzati in termini, diciamo, generali, il Presidente del Consiglio. In termini reali, per come poi li metti in pratica, capisco le ragioni di Floris. Cioè fammi capire, non fa il democristiano, sei diventato... Io ti faccio un esempio, ieri in Commissione di Vigilanza si è parlato, diciamo, come si può... Vabbè. Sul tema, diciamo, della spending review. Allora, se uno mi viene a dire che in questo, nella digitalizzazione, la RAI ha 17 sì. canali, sono troppi, c'è una grande scemenza, puttanata, perché 17 sì. canali cosa servono? È come sono i tre prima, quando ce n'erano solamente tre, adesso ce ne stanno 240. Se vuoi mantenere quella quota di mercato, vabbè, ma al di là dei dettagli, io capito che ma non è il dettaglio, qui il dramma non è che, cioè, non puoi fare slogan, qui sono cose serie, cioè non è che parli lì e dici no, facciamo così, riceviamo, perché se fai il presidente della provincia lo puoi fare, perché parli di cose che non sai. Se fai il sindaco di Firenze, quando fai il presidente del consiglio è un'altra cosa, non vai lì e dici, tanto per dire. Io ad esempio non me la sentirei di fare dei discorsi di questo tipo. Ti dico quello che dicevo prima, sono temi importanti. Se tu fai la rivoluzione seriamente, allora li devi affrontare con serietà. Se li fai, li enunci solo e fai una cosa tanto per dire, non fai la rivoluzione, fai una fiction, che Parenzo, è una cosa diversa. Parenzo, dove stai? Allora, guarda, voglio dire all'amico Minzolini una cosa. Intanto la cosa importante, oggi è stato deciso l'arresto del signor Genovese. Anche lì si è giocata una partita politica pazzesca, perché, per carità, questo sarà colpevole di mille reati. Però bene. Ma bene, che tu perché sei contento quando arrestano qualcuno? Ma del PD. Aspetta, scusa, non è che sono contento. Io no, tu sei contento quando arrestano qualcuno? Non deve passare il principio che sono Gigi Parenzino Amane. Aspetta, fammi capire Parenzo che pensa. Fammi dire una roba, non voglio che passi il principio che sono Parenzo Amanetta, anzi che Gigina Amanetta. Allora, stiamo parlando in questo caso di uno del Partito Democratico, quindi non mi si può dire. Io dico bene, perché la legge vale per tutti, cioè non è che possiamo dire soltanto quelli di centrodestra, quelli di centro, quelli di giù. Lo abbiamo detto per Tedesco tempo fa, oggi lo dico per Genovese, ma non perché mi eccito, perché ci sono le manette e qualcuno finisce, ma semplicemente perché è un rappresentante del popolo accusato di cose gravissime, avrà così l'occasione per scriminarsi. A che serviranno le manette dopo che per mesi. Ma no. La cosa che mi fa incazzare non è questa, è che quando il mio amico Minzolini, a cui voglio veramente bene, veramente, non come un fratello perché sarebbe troppo, ma gli voglio veramente bene, si critica gli 80 euro, lui che percepisce uno stipendio pubblico di 500.000 euro, amico mio, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che c'entra, scusa? Perché scusa. Detto, non puoi fare una cosa del genere, un'azienda legandola a quello. Scusami, tu percepisci soldi da un'azienda pubblica, amico mio, da un'azienda... Io ti voglio bene, voglio dirti una cosa. Aspetta una cosa, Augusto, però rispondi a questa cosa qua. Solo lui ti dice, sei vergognoso, Parenzo, non è che perché quello guadagna i soldi... Cosa hai detto? Sei vergognoso perché non ho capito, uno che guadagna dei soldi non può criticare il provvedimento di 80 euro. No, non è questo il punto. Ma non è questo il punto. Augusto li guadagna legittimamente, ma li percepisce da un'azienda pubblica. Caso Genovesi, è inutile che continui, ti ho detto, io non percepisco niente, perché ho detto, non non so neanche se tornerò in Rai, quindi penso di essere libero di dire qualunque cosa su questo argomento. La seconda cosa che ti dico, potenziale il dramma tasca, della vicenda genovesi, fammi parlare, è questo, che oggi c'è stata tutta una disquisizione se il voto doveva essere palese o meno, ma legato a questioni assolutamente politicistiche, perché qualcuno pensava che altrimenti ci sarebbe stato lo scherzo. Tu lì stai ragionando in termini di garantismo e mi fai dei discorsi del genere. Allora, è successo anche con Berlusconi, ora posso dire apertamente su Genovesi, ma è una follia. È una follia, è come se per caso tu sei in un tribunale e dici ai giudici, cioè non fate la Camera di Consiglio, la dovete fare davanti a noi perché noi non ci fidiamo. Ma che ragionamenti sono? Ragionamenti sono? Questo è un paese incivile, sta diventando. Cioè, sulla questione genovese si è giocata solo una partita in vista delle europee. Da una parte il PD Renzi che lo voleva, che ha detto adesso vi faccio vedere quanto ce l'ho duro e ordino. Però lo devo fare a voto palese, perché altrimenti qualcuno potrebbe farmi uno scherzo. Ma stiamo scherzando? In un paese, in un qualunque paese civile d'Europa, non dico del Ghana, ma dell'Africa, ma d'Europa, dove vigono le regole occidentali. Prendiamo l'America, no? Cara anche a Minzolini. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, che cosa? Stai dicendo cose che non si capiscono. Sarebbe stato arrestato senza passare dalla Camera col voto della Camera. Ma non abbiamo la giustizia da quelle parti lì, non c'è la giustizia che c'è in Italia. Te lo ha spiegato anche Lutwak, che è un nostro amico di questa trasmissione. Te lo ha spiegato anche Lutwak in altre occasioni. Ma quello è la sentenza definitiva. Lutwak parlava di sentenze definitive. In America vale a. Guarda che Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, non era stato condannato per. Mi fai finire? Ma sei diventato. Mi fai finire? Proprio grillino dentro sei ormai. No, a me lo dice. No, a lui, no, Augusto, tu no, tu hai altre cose. No, senti, a proposito, tu sei stata eletto in Liguria, hai visto come se le danno quelle del PDL in Liguria, le nostre amiche De Martini e Ronzulli? Con la De Martini. Può essere anche divertente per alcuni versi, però sai. Quella, scusi, la De Martini che dice tu partito, ricatti Berlusconi, ricatti Berlusconi, sei una che non vale niente, non sa l'inglese, sei una che viene eletta solamente ti vuoi fare leggere per l'immunità. Ma è un discorso che riguarda un po' l'intera classe dirigente di questo paese, ecco. Poi guarda, sta diventando, e noi sai una cosa, ecco, quando poi sento Parenzo, poi capisci, cioè, la società civile poi si rispecchia in una classe politica. Capito Parenzo che t'ha detto? No, è una bellissima battuta ed è un grande polemista, Augusto, e va bene. Rimane la questione di fondo, cioè lui ha uno stipendio potenziale in tasca. Mi fate finire? Però Augusto, questo stipendio che hai è potenziale, è stato diminuito da questa spending review oppure tu resti in sonno con 540.000 euro? Diciamo. Guarda, non lo so, se vengono prese, tu sai benissimo che se si interviene su uno stipendio, in ogni caso si interviene su tutti, non è che uno sta in sonno. E dunque? Perché diventa una sorta di, diciamo, regola generale. Ma si può modificare il tuo stipendio? Questo voglio capire, il tuo stipendio si può modificare o no? Ma certo, cioè, nel senso, se viene deciso che, non so, tutti gli stipendi è il 20%, altrimenti c'è una quota, interviene pure su di me, che mi sembra abbastanza chiaro. Come fai? Non è che una cosa, perché sta in sonno, non cambia, perché diventa una regola aziendale. No, però... Io posso dirti una cosa, ma poi, scusa, ma è un po' un atteggiamento che c'è anche il Presidente del Consiglio. Cioè, non è che se uno non è d'accordo, poi tu devi dire no, perché quello là... O è milionario, quello allora è milionario, ragiona, sì. No, quello è milionario, questo ha raccordo. Lo dico solo rispetto a chi percepisce stipendi da un ente pubblico, cioè Gubitosi. La domanda Minzolini è questa: tu come cazzo hai fatto a prendere uno stipendio da 540.000 euro? Allora, scusa, questa è la domanda che mi ha sempre incuriosito. È stato bravo Berlusca, sei stato bravo tu, com'è che sei riuscito? Ma io ti ho detto, tenendo conto, diciamo, di dove stavo, via dicendo, nel senso, non ci sarei andato se fosse stato diverso, te lo dico con molta franchezza. Poi adesso sono tempi diversi, quindi parliamo intanto di un momento che è completamente diverso. Vabbè, è un'altra Italia, d'accordo? Cioè non li guadagneresti più. Questo con un po' di correttezza, perché altrimenti Cioè hai avuto un culo così, diciamo, avere quello stipendio, diciamo, in un altro periodo. Ma in un altro periodo, adesso chiaramente sarebbe improponibile fare una trattativa del genere. Io ne conosco un altro. Ti dico un'altra cosa, perché almeno sia chiaro. Io ad esempio, quando sono andato là, proprio perché era una politica aziendale, ho preso uno stipendio più basso di quello che aveva Riotta. Dove? Vabbè, ho capito, però a te si è fatto assumere a tempo indeterminato. Aspetta, amico mio. Ti faccio un bonifico. Guarda, stasera ti faccio. Sono molto dispiaciuto. Ti faccio un bonifico di un euro stasera, guarda. Sono dispiaciuto. Però siamo chiari, anche lui era a tempo indeterminato. Ma comunque, vabbè, 500... Ma ti pare una roba... Cioè, solo nell'ente pubblico può avvenire una cosa così, però. Sei ma che cosa? Almeno su questo, cosa? Me, cioè, no? Cioè, è troppo alto... È troppo... Adesso non mi fai parlare degli stipendi degli altri, dai, non... ma io ti ho detto... Cioè, il tuo stipendio è giusto? A tempo indeterminato... Ma mi fai direttori. Guarda che e poi vedi che, ad esempio, questo non è uno stipendio. Anzi, nella media dei direttori dei giornali... Ma è non anche dico questo. Dico la questione... Dico a tempo indeterminato! Il tuo è per sempre, però, Augusto, il tuo è per sempre, oh... No, probabilmente anche per questo forse era più basso. Ma più basso di che? Mi fai dire una cosa che sennò non si capisce. Il 800 è il milione di euro, è il doppio. Incredibile. Ho detto semplicemente che soltanto lì avviene che uno viene preso a tempo indeterminato, gli viene data una, e non è solo il tuo di caso, ce ne sono anche altri, gli viene data sono una tutti così, guarda, sono tutti così. Solo nelle aziende pubbliche avviene questo, sto dicendo, nel privato non sarebbe così, ok? Cioè alla Sette, vabbè, il signor Mentana nel senso si crea lì un rapporto in ogni caso con una proprietà che rimane, fai a vedere quanto durano, perché la proprietà dei, è la politica, amico mio, è la proprietà, è la politica, siamo noi che paghiamo a tempo indeterminato stipendi di gente che non serve un cazzo. Ascoltami un attimo, caro nel privato non sarebbe così. Catastrofe, ascoltami, non essendo nato là, io gli ho avuto una trattativa. Nel senso, sì, se mi andava, quindi siamo stato proprio Mizzolini. In termini di mercato, prima di non è che venivo da lì. Se per caso la cosa all'epoca, okay, chiaramente ti chiedo, non ci sarebbe questo tipo Augusto, di ti chiedo, fatto un'altra cosa, vabbè, e avrei detto di no. Guarda, domanda tu, di 30, domanda di 30 secondi. L'accetteresti la spending review della Rai o no? Ma certo che l'accetterei, perché non dovrei accettarla? Cioè, se diventa una regola, perché non dovrei? Domanda di 30 secondi. Secondo te, Augusto, in un'azienda normale... Vabbè, ma lascia perdere avverrebbe... adesso, dai. Ma che fai dei discorsi senza senso? Senti, gli 80 dico, euro sono... Dico, cioè, una cosa... allora, parlo allora con il presidente o... Gli 80 euro sono elemosina? Mi dici delle cose che non c'hanno Augusto, senso. Gli 80 euro sono elemosina, secondo te? Un po' sì. Sono no, un po'... non sono elemosina. Il punto qual è? Questo lo dico con molta franchezza, è che come sono stati fatti, se tu vai a vedere, sono andati su un determinato target, che purtroppo mi tocca dirlo, perché intanto non lo dice nessuno, che sono l'elettorato del PD, punto e basta, ecco. Allora diciamocene tutte, perché non ci stanno né quelli che stanno sotto, che probabilmente votano Grillino, e non ci stanno quelli che stanno sopra, ok? Però scusami un attimo, arriva a dire, io arrivo a dire che sono le mosse, ma non lo dici manco te, è come Achille Lauro, amico mio, è come Achille Lauro, dovresti bravo, sono d'accordo. Come Achille Lauro, vabbè. Cioè anche perché fatto ora e oltretutto senza coperture ti dà l'idea quasi che è una tantum. Vabbè. Perché noi per adesso sappiamo soltanto che vengono dati ora. Vabbè, cioè, poi vedremo. 2015, lì non ci sono le coperture saluta, per i dati. Saluta Parenzo, da. Saluta ciao, Parenzo. Caro. Ciao, catastrofe. Ciao, ti voglio bene. Ciao. E il conduttore? Why don't you go home? No me molesti mosquito. Let me my burrito. No me molesti mosquito. Sei ancora a casa? Why don't you go home? Ottima trasmissione, sempre la migliore. Succedono cose pazzesche là a Roma, mi dicono che succedono cose incredibili. Fammi parlare oggi, perché se parlo oggi io. Sì, però se aspetta. C'è David, se parlo. No, però aspetta, dopo il resoconto segreto che mi hai fatto via cellulare di quello che è accaduto oggi negli studi di Roma, non dirò una parola, non ti preoccupare, non mi scappa niente. Ti voglio dire non avere timore, ma non mi scapperà nulla, non mi scappa nulla. Stasera non mi scappa nulla, però dopo il resoconto che mi hai fatto della serata, io da domani o da dopodomani inizierò da lunedì una nuova rubrichetta. Scapiccolato. Menzolini c'è ancora, che mi spieghi un attimo con Augusto. No, che perché? Tanto, alla fine, Augusto. Perché? Perché voglio bene, Augusto. Sei una catastrofe, Parenzo. Certo, con 540 lì in sonno, no? Amico, dormienti. Sono soldi dormienti, come le cellule di Al-Qaeda, no? Soldi dormienti. Mario, provincia di Lucca. Buonasera, Cruciani, grazie. Vai, dimmi. Che mi dà questa possibilità. Io sono presidente dell'associazione Toscana Miare, apicoltori toscani. Ah, però, scusi un attimo, lei è presidente della? Associazione Toscana Miele. Ma a noi che cazzo ce ne frega, scusi, beh, Mario, no, per curiosità, così, adesso io non le dico niente, ma a noi che lei è presidente delle associazioni apicoltori, sì, apicoltori toscane, quelli che fanno, a noi cosa ce ne frega, caro, sì, Mario? Proprio, Mario, volevo mettere al corrente l'opinione pubblica di una situazione che sta succedendo, che sta a succedendo livello Italia, dalla Val d'Aosta alla, diciamo, alla Sicilia, che le api stanno morendo di fame. Le api stanno morendo, è un problema grave, bisogna segnalare serio, la signora Brambilla, questo è un problema molto serio, un problema molto serio, anche perché le api, sì, provvedono all'impollinazione dei fiori e valgono come lavoro, sì, una, diciamo, una, beh, diciamo che con tutti i problemi di PIL, no, ma con tutti i problemi che ci sono oggi in giro per l'Italia, diciamo, no, dalla vicenda genovese, sì, alla, sì, vicenda Expo, a la queste cose, ci occupiamo di api, lei si occupa, noi ci occupiamo di api, e la nostra associazione vuole sensibilizzare l'opinione pubblica, sì, affinché si parli di questo problema. E perché ha scelto noi? Perché lei ha chiamato? Ecco, è la... Io ascolto sempre la sua trasmissione e so che lei è una persona molto sensibile a queste problematiche. Sì, sicuro. E credo che, certo, e credo che sarà un nostro portavoce esemplare. Senta, ma ci mandi intanto un vasetto di miele, intanto. Tanto facciamo subito una bella marchettina, dai. Esatto. Ecco, vabbè. Miele indirizzato per Cruciani, Parenzo, Monterosa, 91 20 149. Poi me lo daranno, se ce lo mandano dalla regia, come associazione saremo ben lieti di offrirle del buon miele italiano. No, ma non è che si niente, lei è, come dire, in qualche modo costretto, beh, cioè, quasi obbligato, quasi obbligato, si è fatto un'automarchetta, come minimo un vasettino di miele ci vuole. Dai, va bene, non ci sono problemi per quello. Traffico, ecco, traffico, ma non ce ne frega niente a noi delle api. Adesso io la voglio bene, caro Mario, lei è seduta, ma a me sinceramente del problema mondiale delle api, devo dirle la verità, non me ne frega niente, però magari lei riesce con qualche riga, con qualche spedizione, con qualche ragionamento via mail, ovviamente, a farmi appassionare. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda. A proposito, Parenzo, è arrivata in redazione la citazione a giudizio per l'udienza 18 luglio 2014 davanti al giudice di pace di San Severino Marche. Ma è quella del leghista là, della Mora, quel simpatizzante leghista che ce l'ha con te per la vicenda. Cosa dovrei fare, scusami? È arrivata in redazione una roba. Leggi, porti autorizzo. Una citazione, no, me l'hanno detto adesso. Una citazione a giudizio per l'udienza addirittura fissata il 18 luglio del 2014. Giudice di pace di San Severino. Mi sembra che ci sia una richiesta, però molto più bassa di quella. Cioè, ti chiedono 5.000 euro. Mi sembra. Ah, 5.000 euro? Sì, per aver detto che i leghisti erano malati di mente, una cosa del genere. No, per aver detto, ma se vuoi lo puoi far riascoltare, diciamo anche alla vigilia, no? Di questo processo, quindi sono rinviato a giudizio, questo è il tema. Mi sembra, cioè, stai violando, cioè, tu stai dando una, cioè, è come Berlusconi che gli consegnano l'avviso di garanzia al G8 di Napoli. Perché è uguale. Scusa, perché mi stai trattando uguale? No, perché ti sto dicendo, stai dicendo in diretta che sono ufficialmente indagato da non so quale procura e rinviato a giudizio addirittura, non so. Sì, penso di sì. E devo essere, come penso di sì, lo dici così, cosa vuol dire una sì? È arrivata qui una citazione in giudizio, sì, udienza 18 luglio 2014 davanti al giudice di pace di San Severino Marche. Ragazzi, tra l'altro San Severino è stato Sgarbi, è stato sindaco. Sì, anche. Sì. E che devo fare dopo? Negli anni 92-93. Sì. E che farò? Mi consulterò con il mio avvocato, l'avvocato professor Trucco. Adesso a questo no, punto. No, professore ancora non è professore. Certo che è professore. Certo. Mi confronterò col mio legale di fiducia e costruirò tutto. Comunque è una causa civile e non c'è, nelle cause civili non c'è segreto istruttore. Beh, c'è il collegio difensivo. Comunque 5.000, sgancia 5.000, sì, sgancia, bravo, 5.000. Ma piuttosto mi tagli un braccio. Massimiliano, guarda, da Treviso, pronto a sganciare 5.000, sì, bravo. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vai. Senta una cosa, io ho sentito prima il professore che aveva parlato all'inizio, aveva fatto quel discorso sugli 80 euro. Ecco, io sono perfettamente d'accordo. Nel senso che credo che questi 80 euro ormai siano diventati veramente una beffa, è proprio la propaganda bassa. A volte mi sembra quasi di sentire parlare un venditore di pentole, cioè gli 80 euro, davvero, gli 80 euro che cosa vogliono dire? Cioè, io ho capito che è tempo di elezioni, che tra un po' ci saranno la prossima settimana le europee, però veramente anche il discorso che aveva fatto sui piani che non erano poi stati rispettati, su questa scadenza di tempi perfetti, penso che non faccia una grinza, cioè mi dica lei Cruciani, secondo lei questi 80 euro sono ancora credibili al momento? Fuffa, per me è fuffa, Parenzo, fuffa. Sono soldini, assolutamente fuffa. Sentite, se voi siete tutti ricchi, benestanti, ma che c'entra, ma lo vedi, questo è incredibile. Allora, ma no, ma non è vero, ma io sono uno studente, signor. Ma allora, signor bravo Parenzo, tu che non vuoi 80 euro in più in busta paga, bravo tu, se ti piace così, bravo tu. Certo, non è una misura che risolve i problemi di nessuno, ma come si fa a dire che sono inutili? Questa è la cosa più stupida. Ma no, ma è uno specchietto per le allodole, anche perché ma sarà uno specchietto per le allodole, ma intanto intascano 80 euro e magari non è che voteranno Renzi perché hanno ricevuto 80 euro. Assolutamente. C'è anche questo, vuol dire ritenere gli italiani coglioni, perché pensare che dove si andranno a prendere, ma scusami, questi 80 allora, però, euro. Mettetevi d'accordo con voi stessi e con la logica, perché la logica ha i suoi diritti. Allora, se questo è un regalo che Renzi fa, un regalo elettorale, beh, allora voglio dire, è una mossa elettorale, non un regalo, una mossa elettorale. Sarà una mossa elettorale. Allora, quindi vuol dire che gli italiani che riceveranno 80 euro, voi dite, voteranno automaticamente. Guarda, te l'ha spiegato l'altro giorno la Boldrin. Te l'ha spiegato l'altro giorno Boldrin perfettamente. Ciao. Non è che non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Why don't you go? Gianni da Bologna. Ecco, io la ringrazio, il giornalista Crociani, che mi dà la parola, perché oggigiorno si sentono solamente anche nelle assemblee di partito di omelie. Allora io le dico questo, di Berlusconi. Io siccome sono un sessantenne, e devo dire che Berlusconi, che ha già passato i 70 abbondantemente, è un uomo eccezionale. Primo, perché regge la situazione, nonostante che lo attaccano da tutte le parti e tutte le vicende giudiziarie, ma soprattutto perché non si droga, non beve, non fuma, lui si ricarica con l'azione e soprattutto, dico solamente questo, col profumo di donna che lo manda sempre in attacco, sempre pronto, eccetera. Quindi è un uomo. Con che cos'è che si ricarica, scusi, con la... Col profumo di donna. Shant of a woman. Diciamo profumo di donna. Diciamo così. Profumo di donna per dire col corpo femminile, con la bellezza, con l'estetica e naturalmente... Ho capito tutto, Gianni, ho capito tutto. Non andiamo oltre, va Gianni, caro. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Paolo da Firenze. Pronto? Paolo, dica. Senta, non deve contraddirmi assolutamente, perché mi nervosisco e sono in cura. Oh, sì, è in cura dove, scusi? Sono in cura. Dove sono in cura? Scusi. Allora, ascolti bene. Sì. Voglio dire a Parenzo alcune cose. Parenzo mi piace sia come uomo che come donna. La premessa di questo intervento, che ovviamente finirà... Certo, lei non mi deve contraddire, deve ascoltare, ma... La premessa è che lei è un uomo in cura! Qualunque roba lei dica, appunto, la premessa è che lei è in cura, lei capito? Non può interrompermi, no, ha capito? Posso fare quello che... Io vada, posso fare allora, quello che mi pare... Mi nervosisco, me ne frega un cazzo che si nervosisce. Lo faccia fare zitto, per favore. Siccome politicamente Parenzo non capisce niente, però ho saputo che è informatissimo sulle usanze tribali religiose dell'Africa del Nord. Ma non mi allora, cura, no, cura. Io l'ho letto, non mi contraddica. L'ho letto sul sito. Allora, quale sito? Lei ha bisogno immediatamente di prendere la pillola che oggi ha saltato. Immediatamente. Allora, io voglio sapere perché la circoncisione ai ragazzi in pubertà e nel passaggio poi all'adolescenza nei paesi del Nord Africa questo avviene ma in noi tutti che i paesi frega, noi. Meno che in Algeria, ascolti bene, ma che ascolti bene che cosa? Matto! Ma cosa dice? In Algeria il ragazzo nella pubertà a 13 anni deve fare un pompino al nonno materno. No, aspetta, è vero. Ma cosa lo chiedi a me? Non dell'Algeria, dica. Ma... Lei dice, la contraddico perché lei dice solo stupidaggini. No, solo stupidaggini. Deve dire. E io la contraddico perché dice stupidaggini, ha capito? La contraddico. Lei mi deve spiegare questa io cosa della lei non devo vero? Spiegare niente. Aspetti Paolo, allora ricapitoliamo. Cosa succede secondo lei in Algeria? Secondo, in Algeria, al passaggio dalla pubertà all'adolescenza, sì, invece della circoncisione, il maschietto, e non lo dicono e non lo tirano fuori questa cosa schifosa, deve fare un pompino al nonno materno. Paolo, ma lei è in cura per che cosa? Non ho capito per perché tutto, cosa è in cura. Ma per tutto sarà in cura, scusa, sentilo, per tutto è in perché cura. Perché cosa è in cura? Io ho una leggera depressione ossessiva schizofrenica. No, leggera, non è leggera. Depressione schizofrenica. Non è leggera. Vabbè, secondo me ci sta pigliando per il culo però, sicuro, Paolo sicuro. Da Firenze, dai, su, ci sta pigliando per il culo. Non dica così, per favore! Beh, non mi tratti così, Cruciani! Io sono una persona normale! Beh, sono insomma solo in cura! Io non esco mai di casa! Credo. E devo parlare, mi ha detto comunicare, mi sembra che la trasmissione vostra è molto adatta a me. Sì, vabbè, dai, comunque Parenzo può smentire questa cosa della sì, non conosco. Questo è importante per me. Sì, se per lei è importante, non ne siamo a conoscenza. Non ne siamo a conoscenza, esatto. E allora chiamate Scarbi, lui sa tutto. Scarbi. Ma da quanto tempo è malato lei, signor Paolo? Da quanto è che sta in questa grave versa, in questa grave situazione? Da quanto? 25 anni. Ormai è difficile, è difficile. Grazie, ha capito, Paolo. Ha capito? Sì, ma ho capito che? Cosa ho capito, cazzo? Oh, stia calmo! Ottima trasmissione, sempre la migliore. Il Papa e gli extraterrestri. Senti questa roba, David. È una cosa che non si poteva pensare, quello. Se domani venisse una spedizione di marziani, per esempio, e alcuni di loro venissero da noi, marziani, no? Verdi, con quel naso lungo e le orecchie grandi, come vengono dipinti dai bambini, no? E uno mi dice, ma io voglio il battesimo. Cosa accaderebbe? Il Papa vuole dire sacramenti a tutti, anche ai marziani. Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà. Senti ancora il Papa sul vino. Sul vino, senza vino. Un po' su tutto interviene. A un certo punto il vino viene a mancare e la festa sembra rovinata. Immaginatevi finire la festa bevendo tè. Ah, senza vino non c'è festa. Beh, straordinario. Io però mi sono rotto le scatole di questi qua che mi scrivono. Che delusione, liquidare con un rifiuto e una battuta il problema della scomparsa delle api. Basta solo una conoscenza sommaria della vita, degli ecosistemi, per capire il danno prodotto dalla vostra risposta e atteggiamento in trasmissione. Scrivo un signore che si chiama Marco Innocente. Oh, io voglio dire una cosa. Però è vero che è un problema, eh? Sì, d'accordo, però adesso io posso permettere di, come dire, di non pensare quando conduco la zanzara a parlare del problema delle api. Cioè, io questo volevo dire. Ho detto non me ne frega niente in questo senso. Non che non me ne frega niente se muore, se l'ecosistema ha dei danni. Va benissimo, sì, leggeremo, ci informeremo, tanto che ci possiamo fare. Dai, su. Marco da Milano, dai. Pronto? Sì, dimmi Marco. Pronto, buonasera, mi è arrivato l'orecchio d'elefante, però non fa niente. Ascolti un attimo, guardi che le 80 euro possono essere poche, però calcoliamo un attimino che potrebbero sì, essere... Sì, ma abbassi la radio però, abbassi la radio. No, ma guardi che sono fuori dalla macchina, vabbè. I cani li ho lasciati in macchina. I ascolti cani? Un attimo, ma che, quanti euro, cani ha? Perché sono tre persone che sono, sai che si parla spesso di razzismo, mica razzismo, questi qua ammazzerebbero tutti. Ma chi? Però se io me la piglio con loro sarei il razzista dei razzisti, quindi me li devo sopportare. Ma chi? I compagni che sto andando a cena stasera. Ma perché ci dovrebbe interessare questo, scusi? Ma non ho capito, con chi sta andando a cena? Lei mi ha detto i cani, io gli ho chiamato i cani e lei mi fa chi sono i cani, gli ho spiegato chi sono i cani perché li chiama i cani, se no non lo spiegavo nemmeno. Cioè sono i suoi amici? I suoi amici lei li chiama i cani? Sì, li chiama i cani. Cosa pazzesca, dai. Cioè, sì, ma questo è il minimo. E niente, le stavo spiegando degli 80 euro, potrebbero sembrare pochi, però parliamoci chiaro, lo stipendio medio è intorno ai 1200-1100 lo stipendio medio italiano, quindi sono già al 7-8%. Sì, ma è da due mesi che sento questo discorso, che 80 euro fanno comodo, ma chi dice il contrario? Ma bisogna vedere innanzitutto se sono 80 euro, in alcuni casi non sono 80 euro, se ci sono, perché se per arrivare a questi 80 euro quali altri provvedimenti si prendono? In particolare quali detrazioni scompaiono, è un'altra serie di cose, cioè, e poi comunque non sono rivolte a tutti, non è una cosa strutturale, non è una riforma fiscale, questo è il punto secondo me, poi ci sono altre teorie e va benissimo. A me o chi c'è uno stipendio, però insomma 80 euro, la famiglia normale dice con 80 euro mi pago due bollette, se no c'è il single che si piglia gli 80 euro, prende e se ne va a Lugano a divertirsi. Va bene, Michele, provincia di Bari. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Lorenzo. Niente, io volevo parlare di questa barzelletta degli 80 euro e volevo dirti una cosa, Giuseppe, che praticamente qui io parlo del sud, che a malapena prendiamo lo stipendio e ne avanziamo di stipendi. Ma sai che polverone verrà su già da giugno di questi 80 euro che non verranno pagati, perché che giustamente il titolare che dirà, li devo anticipare io. A malapena si pagano lo stipendio, immaginiamo che cosa può succedere. Cioè, questo ve lo immaginate voi? Cioè, questo qua, ma gli 80 euro, quelli che saranno in busta paga, ci saranno sicuramente il 27 di maggio, su questo non c'è dubbio. Sì, ma uno come io sono uno di tanti che comunque andiamo in arretrato di mesi, no? E quindi a malapena ci riusciamo a prendere lo stipendio. E quindi sono sicuro, come me, come tanti, che non arriveranno questi 80 euro. Vabbè, ma mangiate le guerre, se lei ne ha diritto, arriveranno, caro mio. Ci vorrebbe d'amico da votare per l'Europa. Ci vorrebbe un amico. Allora, guarda che il nostro amico Claudio D'Amico, sì. È un candidato della Lega Nord. Fammi sentire la canzone un attimo proprio. Ci vorrebbe D'Amico. Sono arrabbio davvero. Sono arrabbio. Extraterrestre. No, questa non è l'originale. C'è un rom da portare. Adesso perché della Lega c'è un rom da portare. Extraterrestre, portalo via. È un rom che se no ti ruba via. Bella questa versione, un po' leghista. Senti la musica. David? No, caro Mughini, c'ho ragione stavolta. Risentiamo un po' l'inizio invece dello spot di D'Amico, eh. Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Ci vorrebbe D'Amico da votare per l'Europa. Dai, ci ragazzi, ci vorrebbe un amico dai, di Venditti, poi tra l'altro, dai. Secondo te Aldo Moro, Aldo Moro, Berlinguer, ma dico anche Almirante, amici della Zanzara. Avrebbero mai fatto uno spot del genere? Almirante! Claudio D'Amico, buonasera! Buonasera a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Come andiamo, signor D'Amico? Tutto bene. Allora, però le dico subito una cosa, signor Claudio D'Amico, candidato alle europee per la Lega Nord. Lei è salito alla ribalta in queste ore, sì, per un semplice motivo, perché lei vuole, se dovesse arrivare in Europa, togliere dagli archivi, Parenzo, te lo dico subito, la questione UFO. Degli UFO. Allora, la prima domanda è questa, signor D'Amico, lei crede agli UFO? Allora, posso fare una piccolissima premessa? No, non c'è premessa qui da fare, non ci sono premesse. Solo da fare. Capire, gli UFO, ma anche gli UFO padani magari nello specifico, visto che è della UFO Lega Nord. Di tutti i tipi. Oggi c'era il signor Giuseppe che mi ha detto, io l'ho visto un UFO, e gli ho detto, chi è? È Renzi. Vabbè, ma quella... Vabbè, ma questo... Che ha visto il signor Vabbè, Giuseppe, ma questa qua... Che mi dicono... Io farò, l'ho messo nel mio programma, ovviamente dopo i programmi generali della Lega che sono fermare l'immigrazione. Vabbè, ma lo sappiamo noi che non è... l'euro, bloccare questo euro qua che ci sta massacrando. Vabbè. Però io ho messo anche questa cosa. Sì, ma lei crede, la domanda è questa, noi sappiamo che il programma della Lega non prevede per il momento gli UFO, la domanda che faccio a lei è questa, lei crede all'esistenza degli UFO, sì o no? io voglio appurarlo proprio. Vabbè, ma dai, su, vuole ma quali archivi? Credo, ma non esistono gli archivi. Però aspetta, io vi dico questo. Allora, la nostra Terra, vi ricordate quando dicevano che era piatta, invece era tonda? Allora, io credo che l'universo sia così grande che sia molto strano che la vita sia nata solo sulla Terra. Ci sono tanti altri pianeti. Ci e ci serve un deputato in Europa per sapere. Che sono abitabili, è la scienza che ce lo dice. Sì? Quindi quello che bisogna appurare è se un'eventuale forma di vita su un altro pianeta ha avuto la possibilità di venire fino da noi e entrare vabbè, in ma insomma, diciamo la verità, lei crede all'esistenza degli UFO, d'amico, dai, su, degli extraterrestri, diciamo la verità. Io voglio appurare se ci siano. Vabbè, ma non è che vuole appurare. Ma lei ci crede? O se l'ho sentita io con le mie orecchie, lei crede all'esistenza degli UFO, d'amico, non ci venga a coglionare qui. Allora, io non cogliono, state tranquilli. Io credo che ci sia una buona possibilità che ci siano altre forme di vita nell'universo. No, lei crede che esistano gli UFO? Guarda che le faccio sentire quello che ha detto. Nei cassetti. Ma nei cassetti non c'è niente sugli UFO. Basta con sta storia. Nei cassetti non c'è nulla sugli UFO. Non c'è niente nei cassetti. C'è un sacco di roba, davvero. C'è un sacco di roba. Volete sapere solo questa? Nel 93 fu incaricato Tullio Reggi, che era un fisico del CERT, la Commissione Comunitaria sulla Tecnologia, di indagare e di mettere insieme tutte le informazioni che ci sono sugli UFO. Questo signore... Ma secondo lei gli UFO da dove vengono gli UFO? Ma dove che vengono gli UFO? Vengono, guardi, di UFO ci sono tanti avvistamenti, io non so da dove vengono, tanti voglio saperlo, questo chiedo che... No, ma da dove vengono? Che cosa sono? Si sarà fatta? Mettano i governi con tutto quello che hanno a fare. Hanno la Grecia che fa lì, ma tu ti rendi come poi? Ma poi dicono che non mi devo arrabbiare, me l'ha detto anche il medico che non mi devo arrabbiare, il cardiologo, non ti arrabbiare così tanto alla radio, dico no, guarda, stasera sicuramente parleremo di eccellenze italiane, faremo un'analisi sull'Europa. Non mi devo arrabbiare, ma mi incazzo alla fine alle 8:47 se in Europa vuole che i governi europei con i casini che ci sono, gli spread, la Grecia che è fallita, parlare degli UFO, poi dici non ti arrabbiare. Lei ha detto, Davide, tra l'altro calmo. Sono un fenomeno indubbiamente reale. Ma è un reale. Fenomeno, ma sicuro che è un fenomeno. Infatti. Quello che le sto dicendo e che l'ho detto dopo la premessa, dopo ma non c'è premessa. Ma c'è un pericolo? C'è un pericolo, d'amico, c'è un pericolo UFO? C'è scritto d'amico che ha avuto modo d'amico, di andare ad assistere a delle conferenze sugli UFO con il CUN. Ma vorrà chi è il chiedere, CUN, poi, ed è che un parlamentare chieda in tutti i settori che ci sia chiarezza. Io voglio che ci sia la chiarezza. I governi devono mettere in nero su bianco tutte le cose segrete. Ma non sanno niente i governi sugli UFO. Non è vero. Perché ci sono un sacco di informazioni. Scusi, il pericolo, secondo lei qual è il pericolo? Mi dica la verità, il pericolo qual è? Pericolo intanto è che ci arriva ogni giorno gente che potrebbe avere la poliomielite con questi barconi. La poliomielite, adesso pure la poliomielite. La poliomielite però è un'altra malattia. Da dove viene la poliomielite? Da dove viene la poliomielite? Dalla Siria, l'ha detto l'OMS. Sì, tutto a caso. Dalla Siria. Siria. Adesso una volta era la TBC. Attenzione. In base al deputato che hai, malattia che arriva. Anche perché le dico che se dovesse arrivare un extraterrestre con tutta la marmaglia che ci abbiamo nel nostro paese, sarebbe forse la persona più a posto di quello che ci troviamo nel aspetta. Questo è forte. Lei dice meglio gli extraterrestri. Meglio gli extraterrestri, meglio gli extraterrestri e gli extracomunitari. Diciamo che meglio gli extraterrestri di tutti i delinquenti che ci abbiamo nelle nostre strade. No, lei ha detto un'altra cosa, di questa marmaglia che sta lei arrivando. Ha detto un'altra cosa. Meglio gli extraterrestri della marmaglia che arriva, d'amico, andiamo su. Guarda che se l'extra dobbiamo essere chiari, d'amico, se arrivano gli extraterrestri qua. Se arrivano, se io non esistono gli extraterrestri, cominciamo a dire questo. Ma qualora dovessero esistere e dovessero per caso sorvolare l'Italia, in particolare la Padania, e dovessero vedere gente che raccoglie l'acqua del dio Po, io ti assicuro che anche l'extraterrestre più intenzionato a colonizzare l'Italia, tempo 40 secondi, che succede Padania? Prendono il loro disco volante e ritornano immediatamente. Ma come se lo immagina poi un extraterrestre? D'amico, un extraterrestre, lei come se lo immagina? Ma io le dico una cosa, guarda, ne arrivano tanti ogni giorno di extraterrestri qui da noi che ormai siamo arrivati alla follia. Però un attimo solo, d'amico. Pronto? Sgarbi? Eccolo finalmente. Vittorio? Pronto? Eccoci. Dove sei? Sono a Ravenna. A Ravenna? Che stai facendo a Ravenna? Beh, sarà una mostra. A Ravenna ho presentato la scoperta di una casa romana con un meraviglioso mosaico. Sì, senti, ma è vera questa storia? È vera questa storia che esistono dei box del sesso al Parlamento Europeo intitolati a Sgarbi perché tu ti portavi le donnine a Trombert? Ecco, interessante che da Ravenna sei subito passato a quello che ho sentito. Eh no, perché siamo in conclusione, capito? Sì, sì. No, no, in realtà è una divertente leggenda che favorisce la mia, diciamo, vanità, però è del tutto priva di fondamento, perché al Parlamento Europeo forse ero uno dei pochi che andava o incrociava delle figure femminili reali, non soltanto delle astrazioni, tutto un po' astratto là. Però, cioè, non ho capito, non portavi le donne nei box dell'Unione? No, no, no, perché come dicevo a quelli che sentivano la trasmissione, lì il Parlamento Europeo ha dei box che sono niente meno, nient'altro che gli uffici dei parlamentari, che erano però attrezzati in molti casi anche per un soggiorno notturno, erano dei lettini. Quando io smisi di fare il Parlamento Europeo per andare al... Cioè, se dovevi fare qualcosa, ma in quei lettini hai trombato o no, nei lettini del Parlamento Europeo? Ma è assolutamente probabile. Beh, è probabile, non te lo ricordi. Vabbè, ci sentiamo domani, domani me lo racconti meglio, che stiamo per concludere. Ciao Vittorio, ciao, a domani. Allora, D'Amico... Sì, che forma hanno gli UFO? Che forma hanno gli UFO? Che forma hanno gli UFO? Ma possono avere, per quanto ci dicono, i rapporti di persone che hanno detto di aver visto, hanno forme diverse, però io voglio credere alla realtà e quindi chiedo di avere informazioni. Oddio, chi ha delle informazioni mio. Le deve mettere in. Vabbè, ci sentiamo domani, va. Si faccia fare la visita intanto, strade, davvero, gli extraterrestri. Che sembrano extraterrestri. Vabbè, ciao. Immaginatevi finire la festa bevendo tè. Ah, senza vino non c'è festa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ah dai, hai bevuto stasera? E vabbè, puoi bere ogni tanto, dai.